Terzo anello ad alta voce. Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Il principe amava molto Concetta. Di lei gli piaceva la perpetua sottomissione, la placidità con la quale si piegava ad ogni esosa manifestazione della volontà paterna. Sottomissione e placidità del resto da lui sopravvalutata. La naturale tendenza che egli possedeva a rimuovere ogni minaccia alla propria calma gli aveva fatto trascurare di osservare il bagliore ferrigno che attraversava gli occhi della ragazza quando le bizzarrie alle quali obbediva erano davvero troppo vessatorie. Il principe amava molto questa sua figlia, ma amava ancor più Tancredi. Conquistato da sempre dall'affettuosità beffarda del ragazzo, da pochi mesi aveva cominciato ad ammirare anche l'intelligenza di lui, quella rapida adattabilità, quella penetrazione mondana, quell'arte innata delle sfumature che gli dava il modo di parlare il linguaggio demagogico di moda, pur lasciando capire agli iniziati che ciò non era che un passatempo al quale lui, il principe di Falconeri, si abbandonava per un momento. Tutte queste cose lo avevano divertito. E per le persone del carattere e della classe di Don Fabrizio, la facoltà di essere divertiti costituisce i quattro quinti dell'affetto. Tancredi, secondo lui, aveva dinanzi a sé un grande avvenire. Egli avrebbe potuto essere l'alfiere di un contrattacco che la nobiltà, sottomutata e uniformi, poteva portare contro il nuovo ordine politico. Per far questo gli mancava soltanto una cosa: i soldi. Di questi Tancredi non ne aveva niente. E Concetta, con tutte le sue virtù passive, sarebbe stata capace di aiutare un marito ambizioso e brillante a salire le sdrucciolevoli scale della nuova società? Timida, riservata, ritrosa com'era, sarebbe rimasta sempre la bella educanda che era adesso, cioè una palla di piombo al piede del marito. La vedete voi, padre, Concetta ambasciatrice a Vienna o a Pietroburgo? La testa di padre Pirrone fu frastornata da questa domanda. Ma che c'entra questo, non capisco. Don Fabrizio non si curò di spiegare e si ringolfò nei suoi pensieri. Soldi. Concetta avrebbe avuto una dote, certo. Ma la fortuna di Casa Salina doveva essere divisa in 8 parti, in parti non eguali, delle quali quella delle ragazze sarebbe stata la minima. Ed allora Tancredi aveva bisogno di ben altro, di Maria Santa Pau, per esempio, con i 4 feudi già suoi e tutti quegli zii preti e risparmiatori, di una delle ragazze sutera, tanto bruttine ma tanto ricche. L'amore, certo, l'amore, fuoco e fiamme per un anno, cenere per 30. Lo sapeva lui che cos'era l'amore. E Tancredi, poi, davanti al quale le donne sarebbero cadute come perecotte. Ad un tratto ebbe freddo. Adesso devo andare a vestirmi, padre. Dite a Concetta, vi prego, che non sono affatto seccato, ma che di tutto questo riparleremo quando saremo sicuri che non si tratta soltanto di fantasie di una ragazza romantica. A presto, padre. Si alzò e passò nella stanza di toiletta. Dalla madre chiesa vicina giungevano tetri e rintocchi di un mortorio. Qualcuno era morto a donna fugata, qualche corpo affaticato che non aveva resistito al grande lutto dell'estate siciliana, cui era mancata la forza di aspettare la pioggia. Beato lui, pensò il principe mentre si passava la lozione sulle basette. Beato lui, se ne strafotte ora di figlie, doti e carriere politiche. Questa effimera identificazione con un defunto ignoto fu sufficiente a calmarlo. Finché c'è morte c'è speranza, pensò. Poi si trovò ridicolo per essersi posto in un tale stato di depressione perché una sua figlia voleva sposarsi. Sedette su una poltrona e si appisolò. Thank you. Dopo un'ora don Fabrizio si risvegliò rinfrescato e discese in giardino. Il sole già calava e i suoi raggi, smessa la prepotenza, illuminavano di luce cortese le araucarie, i pini, i robusti lecci che facevano la gloria del posto. Il viale principale scendeva lento fra alte siepi di alloro, incornicianti anonimi busti di dee senza naso, e da in fondo si udiva la dolce pioggia degli zampilli che ricadevano nella fontana di Anfitrite. Su di un isolotto al centro del bacino rotondo, modellato da uno scalpello inesperto ma sensuale, un Nettuno spiccio e sorridente abbrancava un'Anfitrite vogliosa. L'ombelico di lei, inumidito dagli spruzzi, brillava al sole, nido fra poco di baci nascosti nell'ombria subacquea. Don Fabrizio si fermò, guardò, ricordò, rimpianse, rimase a lungo. «Zione, vieni a guardare le pesche forestiere. Sono venute benissimo. E lascia stare queste indecenze che non sono fatte per uomini della tua età». L'affettuosa malizia della voce di Tancredi lo distolse dall'intorpidimento voluttuoso. Non lo aveva inteso venire, era come un gatto. Per la prima volta gli sembrò che un senso di rancore lo pungesse alla vista del ragazzo. Quel bell'imbusto con il vitino smilzo sotto l'abito blu scuro era stata la causa che lui avesse tanto acerbamente pensato alla morte 2 ore fa. Poi si rese conto che il rancore non era, soltanto un travestimento del timore. Aveva paura che gli parlasse di Concetta, ma l'abordo, il tono del nipote non era quello di chi si prepari a far confidenze amorose a un uomo come lui. Si calmò. L'occhio del nipote lo guardava con l'affetto ironico che la gioventù concede alle persone anziane. «Possono permettersi di fare un po' i gentili con noi, tanto sono sicuri che il giorno dopo dei nostri funerali saranno liberi». Andarono a guardare le pesche forestiere. L'innesto dei gettoni tedeschi, fatto 2 anni prima, era riuscito perfettamente. Le pesche erano poche, una dozzina sui 2 alberi innestati, ma erano grandi, vellutate e fragranti. Giallognole con 2 sfumature rosee sulle guance sembravano testoline di cinesine pudiche. Il principe le palpò con la delicatezza famosa dei polpastrelli. «Mi sembra che siano proprio a punto. Peccato che siano troppo poche per servirle stasera. Domani le faremo cogliere e vedremo come sono». «Vedi, così mi piace, zio, così nella parte dell'agricola Pius, che apprezza e pregusta i frutti del proprio lavoro, e non come ti ho trovato poc'anzi mentre contemplavi nudità scandalose. Eppure, Tancredi, anche queste pesche sono prodotte da amori, da congiungimenti. Certo, ma da amori legali, promossi da te, padrone, e dal giardiniere, notaio, da amori meditati, fruttuosi. In quanto a quelli lì, disse e accennava la fontana della quale si percepiva il fremito al di là di un sipario di lecci, credi davvero che siano passati dinanzi al parroco? L'abbrivio della conversazione diventava pericoloso e don Fabrizio si affrettò a cambiare rotta. Risalirono verso casa. Giunti in cima alla scala che con svolte lente e lunghe soste di pianerottoli saliva dal giardino al palazzo, videro l'orizzonte serale al di là degli alberi. Dalla parte del mare, immani nuvoloni color d'inchiostro scalavano il cielo. Forse la collera di Dio si era saziata e la maledizione annuale della Sicilia aveva avuto termine. In quel momento quei nuvoloni, carichi di sollievo, erano guardati da migliaia di altri occhi, avvertiti da miliardi di semi nel grembo della terra. «Speriamo che l'estate sia finita, che venga finalmente la pioggia», disse don Fabrizio. E con queste parole l'altero nobiluomo, cui personalmente le piogge avrebbero soltanto recato fastidio, si rivelava fratello dei suoi rozzi villani. Thank you. Il principe aveva sempre tenuto a che il primo pranzo a Donna Fugata avesse un carattere solenne. I figlioli sotto i 15 anni erano esclusi dalla tavola, venivano serviti vini francesi, vi era il poncio alla romana prima dell'arrosto e i domestici erano in cipria e polpe. Su di un solo particolare transigeva: non si metteva in abito da sera per non imbarazzare gli ospiti che evidentemente non ne possedevano. Quella sera, nel salone detto di Leopoldo, la famiglia Salina aspettava gli ultimi invitati. Tutto era placido e consueto quando Francesco Paolo, il sedicenne figliolo, fece nel salotto una irruzione scandalosa. «Papà, Don Calogero sta salendo le scale! È in frac!» Tancredi valutò l'importanza della notizia un secondo prima degli altri. Era intento ad ammaliare la moglie di Don Onofrio, ma quando udì la fatale parola non poté trattenersi e scoppiò in una risata convulsa. Non rise invece il principe, al quale, è lecito dirlo, la notizia fece un effetto maggiore del bollettino dello sbarco a Marsala. Quello era stato un avvenimento previsto, non solo, ma anche lontano e invisibile. Adesso, sensibile come gli era ai presagi e ai simboli, contemplava la rivoluzione stessa in quel cravattino bianco, in quelle due code nere che salivano le scale di casa sua. Non soltanto lui, il principe, non era più il massimo proprietario di Donna Fugata, ma si vedeva anche costretto a ricevere, vestito da pomeriggio, un invitato che si presentava a buon diritto in abito da sera. Il suo sconforto fu grande e durava ancora mentre meccanicamente si avanzava verso la porta per ricevere l'ospite. Quando lo vide, però, le sue pene furono alquanto alleviate. Perfettamente adeguato quale manifestazione politica, si poteva però affermare che, come riuscita sartoriale, il frac di Don Calogero era una catastrofe. Il panno era finissimo, il modello recente, ma il taglio era semplicemente mostruoso. Il verbo londinese si era assai malamente incarnato in un artigiano girgentano cui la tenace avarizia di Don Calogero si era rivolta. Le punte delle due falde si ergevano verso il cielo in muta supplica. Il vasto colletto era informe e, per quanto doloroso è necessario dirlo, i piedi del sindaco erano calzati da stivaletti abbottonati. Don Calogero si avanzava con la mano tesa e inguantata verso la principessa. «Mia figlia chiede scusa, non era ancora del tutto pronta. Vostra eccellenza sa come sono le femmine in queste occasioni», aggiunse esprimendo in termini quasi vernacoli un pensiero di levità parigina. «Ma sarà qui fra un attimo, da casa nostra sono due passi, come sapete». L'attimo durò 5 minuti. Poi la porta si aprì ed entrò Angelica. La prima impressione fu di abbagliata sorpresa. I Salina rimasero col fiato in gola. Tancredi sentì addirittura come gli pulsassero le vene delle tempie. Sotto l'impeto della sua bellezza, gli uomini rimasero incapaci di notare, analizzandoli, i non pochi difetti che questa bellezza aveva. Molte dovevano essere le persone che di questo laborio critico non furono capaci mai. Era alta e ben fatta in base a generosi criteri. La carnagione sua doveva possedere il sapore della crema fresca alla quale rassomigliava, la bocca infantile quello delle fragole. Sotto la massa dei capelli color di notte, avvolti in soavi ondulazioni, gli occhi verdi albeggiavano, immoti come quelli delle statue e come essi un po' crudeli. Procedeva lenta, facendo roteare intorno a sé l'ampia gonna bianca, e recava nella persona la pacatezza, l'invincibilità della donna di sicura bellezza. Molti mesi dopo soltanto si seppe che al momento di quel suo ingresso trionfale essa era stata sul punto di svenire per l'ansia. Thank you. Angelica non si curò di Don Fabrizio che accorreva verso di lei, oltrepassò Tancredi che sorrideva trasognato. Dinanzi alla poltrona della principessa la sua groppa stupenda disegnò un lieve inchino e questa forma di omaggio inconsueta in Sicilia le conferì un istante il fascino dell'esotismo in aggiunta a quello della bellezza paesana. «Angelica mia, da quanto tempo non ti avevo vista! Sei molto cambiata e non in peggio!» La principessa non credeva ai propri occhi. Ricordava la tredicenne poco curata e bruttina di 4 anni prima e non riusciva a farne combaciare l'immagine con quella dell'adolescente voluttuosa che le stava davanti. Il principe non aveva ricordi da riordinare, aveva soltanto previsioni da capovolgere. Il colpo inferto al suo orgoglio dal frac del padre si ripeteva adesso nell'aspetto della figlia. Ma questa volta non si trattava di panno nero, ma di matta pelle lattea, e tagliata bene, come bene. Vecchio cavallo da battaglia com'era, lo squillo della grazia femminile lo trovò pronto, ed egli si rivolse alla ragazza con tutto il grazioso ossequio che avrebbe adoperato parlando alla duchessa di Bovino o alla principessa di Lampedusa. «È una fortuna per noi, signorina Angelica, di avere accolto un fiore tanto bello nella nostra casa, e spero che avremo il piacere di rivedervelo spesso.» «Grazie, principe. Vedo che la sua bontà per me è uguale a quella che ha sempre dimostrato al mio caro papà.» La voce era bella, bassa di tono, un po' troppo sorvegliata forse. Il collegio fiorentino aveva cancellato lo strascichio dell'accento girgentano. Di siciliano nelle parole rimaneva soltanto l'asprezza delle consonanti, che del resto si armonizzava benissimo con la sua venustà chiara ma greve. A Firenze anche le avevano appreso ad omettere l'eccellenza. Rincresce di poter dir poco di Tancredi. Dopo che si fu fatto presentare da Don Calogero, dopo aver a stento resistito al desiderio di baciare la mano di Angelica, dopo aver manovrato il faro del suo occhio azzurro, era rimasto a chiacchierare con la signora Rotolo e non capiva nulla di quanto udiva. Padre Pirrone, in un angolo buio, se ne stava a meditare e pensava alla Sacra Scrittura che quella sera gli si presentava soltanto come una successione di Dalile, Giuditte ed Ester. La porta centrale del salotto si aprì e «pram prom!» declamò il maestro di casa. Suoni misteriosi mediante i quali si annunziava che il pranzo era pronto. E il gruppo eterogeneo si avviò verso la stanza da pranzo. Il principe aveva troppa esperienza per offrire a degli invitati siciliani in un paese dell'interno un pranzo che si iniziasse con un potage e infrangeva tanto più facilmente le regole dell'alta cucina in quanto ciò corrispondeva ai propri gusti. Ma le informazioni sulla barbarica usanza forestiera di servire una brodaglia come primo piatto erano giunte con troppa insistenza ai maggiorenti di Donna Fugata perché un residuo timore non palpitasse il loro all'inizio di ognuno di quei pranzi solenni. Perciò, quando 3 servitori in verde, oro e cipria entrarono recando ciascuno uno smisurato piatto d'argento che conteneva un torreggiante timballo di maccheroni, soltanto 4 su 20 persone si astennero dal manifestare una lieta sorpresa: il principe e la principessa perché se l'aspettavano, Angelica per affettazione e Concetta per mancanza di appetito. Tutti gli altri, Tancredi compreso, rincresce dirlo, manifestarono il loro sollievo in modi diversi, che andavano dai flautati grugniti estatici del notaio allo strilletto acuto di Francesco Paolo. Lo sguardo circolare minaccioso del padrone di casa troncò del resto subito queste manifestazioni indecorose.